radiocittaperta.it, la tua radio online. Cresce violentemente. La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari, forte come il tuono, calda. Il cammino non può essere che di sangue. La canzone del fango rappreso nel sangue. Morente, s'aggrappa alla vita, pur morendo, vivendo il dolore. La fine non può essere che dolce, definitiva. Ci siamo, buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti, questa è Alternitalia come ogni venerdì da questo momento fino alle ore 18 in mia compagnia, in compagnia di Gianluca Polverari, trasmissione che si occupa di musica underground del nostro paese e oggi parleremo anche di cinema. Allora, come ospiti dapprima un gruppo italo-inglese dal nome Vanarin, che è uscito di recente con il suo nuovo disco, il terzo per la Dischi Sotterranei. E poi avremo ospite la regista del film Going Underground, film dedicato ai grandissimi Gas Nevada. Ci sarà una prima proiezione in quel di See You Sound domenica a Torino e poi ci saranno ben tre date dal lunedì a mercoledì in tutta Italia. Ci sarà anche la presentazione mercoledì prossimo alla Sala Troisi di Roma con la regista stessa, ossia, ripeto, Lisa Bosi. Ci sarà anche come relatore Federico Guglielmi. Insomma, ne parleremo più tardi con Lisa Bosi, con la regista di questo bel film Going Underground. Segnalerò poi alcune date dal vivo, mi raccomando fatemele sapere, io ne sono a conoscenza di alcune, ma ecco, se suonate in qualsiasi parte d'Italia fatemelo sapere, io lo andrò ad annunciare. E quindi in rigorosa diretta il venerdì e poi potrete ascoltare il podcast prendendolo dal sito di Radio Città Aperta oppure da alternitalia.podomatic.com oppure da Amazon Podcast. Per chi segue la diretta ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e vedere la copertina del disco dal nostro sito, dal sito di Radio Città Aperta, ma anche dalle app varie, cioè dall'app di Radio Città Aperta, scaricatela o aggiornatela, oppure dalle altre app che hanno al loro interno tantissime frequenze da tutto il mondo, quindi c'è anche Radio Città Aperta su, ad esempio, TuneIn, Radio Garden e via dicendo. Condividerò come classico poi la scaletta, i link ai podcast sui miei profili social, e quindi sono presente sui social come Gianluca Polverari, sia su Facebook che su Instagram. Su Facebook trovate anche la pagina fan della trasmissione, si chiama Alternitalia. E ancora, rinnovo i contatti per interagire con la trasmissione, anche per vostre richieste in ambito italiano, non cose straniere, ma vostre richieste italiane ben gradite: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, la chat di Skype è Radio Città Aperta. Questo singolo è uscito proprio in questi giorni. Sono i miei cani. Lei si chiama Gaia Banfi, non è parente, o almeno credo, di Lino, ma è un'artista ligure, non sono sicuro se è proprio di Genova. Questo è il suo nuovo singolo per lei, che sta per uscire con un album per la Trova Rubato, che è la stessa etichetta di ad esempio Daniela Pes, e ci sono molte affinità tra la musica di Gaia Banfi e quella di Daniela Pes. Il nuovo disco quindi uscirà in primavera, un brano sicuramente molto suggestivo. Gaia Banfi, e oggi abbiamo iniziato così la trasmissione. Vado con i primi saluti, do il ben trovato a, allora, a Dario, a Lisa, a Eugenio, a Daniela, a Luigi, ad Andrea, a Biro e poi a anche a Biro, poi a Francesco, ad Anna Laura. Questi sono alcuni, bacio ad Em, questi sono alcuni dei contatti che si manifestano all'ascolto della trasmissione di Alternitalia. Potete scrivermi anche le vostre richieste, dirmi che ci siete all'ascolto. Caffè del pomeriggio, oddio, tra verso 17 ci facciamo il tè virtuale, sempre tramite SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468. Allora, come detto, oggi avrò ospiti da prima Ivana Rin e poi la regista del film dedicato ai Gas Nevada, ossia Lisa Bosi. Lunedì prossimo invece avrò ospite un altro progetto che viene da Bologna, se Gas Nevada appunto sono in Bologna. Invece lunedì avrò ospite Laura Newsday, che è un'artista, una sperimentatrice tra elettronica, sax e tante idee che pescano da generi e così intuizioni diverse. Un gran bel disco questo ritorno per lei, per questa musicista, e allora con molto piacere andremo a raccontare questo album che esce per la ottima, una delle più valide etichette che circolano al momento, ossia la Maple Death. Il disco è uscito il 31 gennaio, lei si chiama Laura Agnus Day, un album che si apre con Itiolalia. sperimentazioni, quindi per l'Aura News Day, un suono quasi di un futuristico mondo afro con questi elementi elettronici, il suo sax spesso effettato, percussioni, veramente un gran bel disco. Itiolalia, la traccia d'apertura dall'album di Laura Agnus Day, che andremo a presentare il prossimo lunedì all'interno della mia trasmissione Puzzle. Si chiama Flowers Are Blooming in Antarctica. Beh, io ho parlato di musica afro, ci ho preso proprio. Parla di Antartica lei? No, vabbè, a parte gli scherzi, poi approfondiremo il discorso con l'artista che avremo ospite, ripeto, all'interno di Puzzle. Invece abbiamo già avuto ospiti questi artisti che hanno unito le loro forze, parlo degli A Bad Day. Ci trasferiamo, beh, rimaniamo in Emilia Romagna tra Ferrara e Bologna. Eh sì, perché questo è il lavoro che unisce insieme, dietro la sigla Bad Day, i due chitarristi degli attuali Massimo Volume, ossia Sara Ardizzoni ed Egle Sommacal. Un disco che abbiamo presentato proprio con Sara Ardizzoni. Trovate il podcast e l'intervista agli A Bad Day sul sito di Radio Città Aperta, una chiacchierata per approfondire l'album, che è una registrazione che vede le due chitarre intrecciarsi, creare melodie melodiche, melodie armoniose da una parte ma anche sperimentali dall'altra, un uso di effetti assai importante all'interno del lavoro, edito dalla Tiglio Records. Questa è Death of a Drum per A Bad Day, ossia Egle Sommacal e Sara Ardizzoni, già chitarre dei Massimo Volume, poi Egle Sommacal attivo anche in chiave solista, Sara Ardizzoni pure con la sigla Dagger Moth, ma in questo caso, ripeto, la sigla che dovete tenere ben a mente è quella di A Bad Day, un brutto giorno, una cattiva giornata. No, no, non deve essere così, deve essere una bellissima giornata con i suoni di Radio Città Aperta e di Alterna Italia. un sound sicuramente di ricerca che alterna momenti più melodici ad altri più così, ripeto, sperimentali. A Bad dei Sarardizzoni, Egle Somaca, le loro sapienti ed effettate chitarre che si intrecciano in questo connubio artistico. E mentre scorre questa musica, beh, la notizia è arrivata fresca oggi, ha sicuramente entusiasmato parecchie persone, ad altre l'ha lasciata indifferenti. Fatto sta che i CCCP, fedeli alla linea, dopo la loro reunion e le tante date che sono andate in scena la scorsa estate, beh, ci hanno preso gusto e torneranno. E pensate, nelle varie date che sono state annunciate ce n'è una che francamente non mi aspettavo, proprio la data romana, il 30 giugno al Circo Massimo di Roma. Chi se lo sarebbe mai così aspettato, ma soprattutto pensando agli anni 80, così i CCCP al Circo Massimo, e invece succede tanti anni dopo. CCP quindi il 30 giugno al Circo Massimo di Roma, il 3 luglio al Castello di Legnano, Milano, l'8 luglio all'ex base NATO di Napoli, 12 luglio alla Fiera del Levante di Bari, 18 luglio a Villa Contarini di Piazzolla sul Brenta a Padova, 24 luglio a Piazzale Federico Fellini di Rimini e il 30 luglio al Teatro Antico di Taormina, anche qui bella e suggestiva location. Quindi CCCP che tornano dal vivo per la prossima estate 2025. Allora ce li ascoltiamo insieme con Manifesto. Lunga vita pure ai CCCP che se ne tornano dal vivo anche in questo 2025 d'estate. Ripeto le date perché tra breve partiranno le prevendite. E allora 30 di giugno al Circo Massimo di Roma, 3 luglio Castello di Legnano Milano, 8 luglio ex base NATO di Napoli, 12 luglio Fiera del Levante di Bari, 18 luglio Villa Contarini di Piazzola sul Brenta Padova, 24 luglio Piazzale Federico Fellini di Rimini, 30 luglio Teatro Antico di Taormina. E con in sottofondo, insomma, l'inno sovietico, andiamo ad annunciare l'intervista odierna con questa band italo-britannica chiamata Vanarin. Sono tornati con questo nuovo lavoro intitolato Easy Days. Troviamo un po' di indie, un po' di elettronica, un po' di soul, insomma un progetto molto interessante che ora andremo a presentare con uno dei componenti dei Vanarin. Intanto ci ascoltiamo una canzone che si intitola What We Said. Bene, bene, bene, questa è la musica di una band appunto italo-inglese chiamata Vanarin e stiamo per raccontare questo lavoro uscito per Dischi Sotterranei insieme alla voce della band David Paisden, che dal nome e cognome intuiamo essere la parte inglese del gruppo. Ciao David. Ciao a tutti. Ciao, ben trovato e benvenuto qui su Radio Città Aperta. Questo... Thank you very much. We are so glad to have with us. E quindi... Oh. Allora, Easy Days, il nuovo disco dei Vanarin. Vanarin, dove si posizionano a livello geografico? Insomma, da dove provenite? Siete più in Italia, in Inghilterra o vivete proprio ormai da queste parti? Allora, noi siamo tutti di Bergamo, eccetto il bassista, che è di Lecco. Quindi, però è un po' ormai anche lui bergamasco, cioè ormai l'abbiamo assorbito, l'abbiamo trasformato. come nei film degli anni 90, quando c'è la ragazza che fa la trasformazione, si toglie gli occhiali, si lascia giù i capelli, ha fatto la stessa cosa. Il makeover adesso del nostro bassista è un bergamasco. È un bergamasco anche lui. Ma quindi tu sei anche, cioè sei nato in Italia oppure sei venuto dall'Inghilterra? Allora, ormai sono da tanti anni in Italia. Allora, io sono nato a Brighton e sono cresciuto a Manchester fino ai 9 anni. Okay. Poi dai 9 anni mi sono spostato a Bergamo. Okay. Perché mia madre è bergamasca e mio padre è inglese di Kent. Okay. Quindi c'è questo mix, quindi ho fatto proprio una parte della mia vita in Inghilterra e poi sono arrivato in Italia. 9 anni e ho imparato l'italiano dai 9 anni in poi. Quindi insomma un progetto che ti vede insomma coinvolto dalle origini proprio del gruppo con... Assolutamente. Sì. Tre album, come dicevo prima, un disco, questo nuovo Easy Days, che unisce insieme vari aspetti, da un certo tipo di elettronica new soul a elementi di indie, melodie insomma che si sviluppano in una maniera che comunque riescono a cullare, ma sono anche psichedeliche. E allora raccontiamo un po' di Easy Days, ma anzi prima partiamo un po' dalla storia dei Vanarin, dacci un quadro un po' del vostro percorso. Allora, ci siamo, come abbiamo detto prima, ci siamo quindi tutti conosciuti nei dintorni di Bergamo. Abbiamo formato la band diciamo che parte da un mio bisogno di scrivere canzoni, perché avevo una scatola metaforica di canzoni che volevo produrre, volevo far uscire, e stavo cercando le persone giuste con cui suonare, sai, quella magia, le persone giuste per avere quella sensazione lì speciale. Io sono un grande fan dei Beatles, quindi credo tanto nell'idea della band, delle persone che hanno sintonia, che suonano insieme, che arrangiano insieme, eccetera. Quindi parte da questo, diciamo, mio bisogno, e poi ho trovato tutti gli altri membri, quindi Marco il chitarrista, l'altro Marco il batterista e Massi il bassista, e ci siamo trovati, e questo nel fine 2015, inizio 2016. Okay. Dopodiché abbiamo iniziato a suonare insieme. Abbiamo fatto un EP nel 2017, poi abbiamo fatto tante date in giro per l'Italia, abbiamo suonato un po' fuori, abbiamo fatto uscire intanto poi un primo album, un altro EP, un altro album, e adesso arriviamo al nostro terzo disco, che è Easy Days, come hai detto tu. Diciamo che abbiamo suonato un po' in giro per tutta l'Italia, abbiamo fatto qualcosa anche fuori, abbiamo fatto un bellissimo showcase festival a Seoul, in Sud Corea. Bello! Fantastico. E come ci siete finiti? Come è nata la possibilità di suonare lì? Siamo stati selezionati fondamentalmente. Siamo stati selezionati da una serie di band emergenti in Italia. Okay. Attraverso Italia Music Export della CI siamo stati selezionati. E diciamo che il festival, che si chiama Zandari o Zandari, stava cercando delle band in giro per tutta l'Europa da chiamare, e nella lista che gli è stata fornita di band italiane si vede che gli abbiamo dato delle belle sensazioni e ci hanno invitati. È stato un grandissimo, grandissimo onore, perché poi la situazione lì era bellissimo. Abbiamo suonato in un locale favoloso, abbiamo fatto una settimana a Seoul, che è una città incredibile, e siamo riusciti pure a fare 2 altre date al di fuori del showcase festival, in 2 altre piccole situazioni bellissime. Quindi insomma, assolutamente da rifare, 5 su 5 stelle. Ci credo. No, anche perché uno pensa alla musica coreana, al K-pop, ma non è solo quello, anzi la musica dalla Corea propone anche tante altre realtà musicali, anche di valore post-rock o di alternative veramente notevoli, quindi non è solo quel genere lì. È una serata mista. Sì, assolutamente. Tra l'altro, a proposito di live, leggevo insomma che avete suonato di spalla nomi importanti, tra cui Thurston Moore, i Public Image Limited, i Battles, insomma anche esperienze queste belle importanti. Assolutamente, anche lì tre situazioni che sono successe in tre momenti diversi, anche nostre, a livello di cosa stavamo suonando al tempo, cosa avevamo fatto uscire. E bellissimo, cioè nel senso mi ricordo ancora a Radio Onda d'Urto a Brescia quando abbiamo aperto a Thurston Moore, è stato bellissimo perché vabbè, Thurston Moore credo che sia un idolo per tanti ragazzi, particolarmente degli anni 90, insomma, certo. È una figura importantissima, quindi è stato bellissimo condividere il palco con gente così, è sempre favoloso. Però c'è poco di Thurston Moore nella vostra musica, colgo invece altri aspetti, altre sonorità, ecco, alcune vengono citate anche nel comunicato stampa e devo dire che ci può stare una versione, cioè viene citato ad esempio James Blake da una parte, Tame Impala dall'altra. Sì, diciamo che Thurston Moore non rappresenta sicuramente più le nostre sonorità, esatto, della band. Poi, in passato sì, invece. Quando siamo partiti era all'inizio, comunque Thurston Moore l'abbiamo fatto il primo anno del primo EP. Nel primo EP che avevamo fatto uscire eravamo molto più rock e poi siamo cambiati parecchio negli anni. Quindi al tempo magari era più sensato, adesso sicuramente non c'entrerebbe niente se dovessimo fare ancora una data insieme. Però ecco. E questi cambi di atmosfere, questi cambi di suoni sono dovuti ad ascolti in particolare che vi hanno folgorato e che vi hanno portato a fare ulteriori ricerche? Penso sia più, cioè sicuramente c'è questo aspetto, perché ascolti magari un artista che ti stravolge, da lì sicuramente c'è l'ispirazione, però credo che sia anche più un fattore di semplicemente stiamo crescendo sempre, stiamo cambiando sempre come persone, e quindi credo che questa cosa insomma si sente anche nell'evoluzione musicale, cioè più tu cresci più tu cambi i tuoi gusti, magari vai a raffinare certi aspetti o ti innamori di altri mondi, diventano parti più preponderanti di chi sei, quindi certo. Credo che sia stato più quello, siamo tanto cresciuti e cambiati in questo senso, e poi sono arrivate tutte queste nuove influenze che hanno, diciamo, costruito o creato il nuovo disco che poi adesso è fuori. Se non sbaglio, non avete, o almeno io non l'ho trovato, un videoclip per l'album, oppure sì? Non ancora. Esatto. Non ancora. Dobbiamo ancora, cioè nel senso ci sono delle cose in cantiere, ma non abbiamo ancora fuori nulla a livello video, no. Ok. Allora, ti ponevo questa domanda perché poi più tardi uscirà il podcast dell'intervista e di solito arricchisco l'articolo appunto dell'intervista, oltre che con il file audio della chiacchierata, anche con l'ascolto dell'intero disco, e quello ci sarà, e anche di un video che in questo caso non avevo trovato, e quindi ecco, ho inserito comunque un estratto video, diciamo, con immagine fissa della vostra copertina di Memories, che è la traccia che ho. Ora, se sei d'accordo, ci andiamo ad ascoltare. Volentieri, volentieri. Vuoi spendere anche una bella storia con Memories? Scusa? Ho anche una bella storia attaccata a Memories. Se magari allora prima di ascoltare il brano ce la racconti, così poi ce la gustiamo ancora meglio. Fondamentalmente Memories è il mio pezzo credo preferito del disco, ma per il fatto che racconta una parte molto intima mia, nel senso che Memories racconta proprio quello che siamo andati a dire un po' all'inizio dell'intervista, cioè questo passato che ho inglese, cioè racconta attraverso delle immagini un po' come se fossero dei quadri, queste immagini un po' di cose astratte che vanno a rappresentare pezzi di ricordi che ho della mia infanzia in Inghilterra, e quindi ha un qualcosa di molto simbolico per me e emotivamente è molto intima, come rispetto magari alle altre canzoni che sono comunque intime ma in modo un po' diverso e un po' meno diretto. Questo è proprio diretto, è abbastanza chiaro quello di cui sto parlando, no? Il pezzo si chiama Memories, ricordi, e va a esplorare tutta la mia infanzia in Inghilterra, quindi per chi vuole farsi un bel viaggio attraverso i mattoni gialli, arancioni dei vecchi quartieri di Manchester, Memories è il pezzo giusto. Anche se ultimamente, vabbè, io sono innamorato dell'Inghilterra, quindi ci vado spesso. Questi mattoni rossi e gialli, peccato, stanno abbattendo tutto, stanno facendo un nuovo skyline tutto su Manchester. Vedo tanti grattacieli nuovi e poche di quelle mattonate rossi. Lì Manchester centro, sì. Manchester centro, però se esci da Manchester, tipo io vivevo nella zona di Prestwich, uh-huh. che è più, diciamo, provincia di Manchester. Okay. Se andate in quelle zone lì, ancora c'è. È ancora molto, sì, è ancora quasi, cioè ogni tanto, io 2 anni fa sono tornato in Inghilterra in vacanza, diciamo, e sono passato proprio davanti alla mia vecchia casa dove sono cresciuto ed è ancora praticamente identica a come l'abbiamo lasciata. E, sai com'è? Sì, sì, sì, assolutamente. Allora, ci andiamo ad ascoltare Memories per Vanarin. I've always loved that orange sweater. I've always loved the feeling getting better when the clouds make a silver lining. We just sit and shine. Walking by the wet wall, sitting in the shower. Mama's making breakfast, watching the hour. I get homesick all the time. I see me sitting in a room, spending my afternoon playing free, free from all the things we depend on. Now I wonder where the time went. Now I just wanna go back there. Seems so far away. My dad is working. I still don't believe that suddenly I'm older now. Suddenly I'm all grown up and it's over now. I've always loved that orange sweater. I've always loved that feeling getting better when the clouds make a silver lining. We just sit and shine. Walking by the red road, singing in the shower. Mama's making breakfast. And as the hour, I get homesick all the time. And it's just my memory. And it's just my memory. And it's just my memory. Memories per i Vanarin, oggi ospiti qui a Radio Città Aperta Alternitalia, e stiamo raccontando questo disco per la formazione proveniente da Bergamo e capitanata da David Paisdien, appunto. Eccomi, eccolo qui di nuovo con noi. Ma Vanarin cosa significa? Questa è un'ottima domanda a cui non ho che non mai ti avrà mai fatto nessuno, immagino. No, sai cosa? Avevo iniziato a ipotizzare che ogni volta potrei inventarmi una risposta. Sì. No? Ma la verità dei fatti è che Vanarin, almeno per quanto ne so io, non significa non niente. Nulla. Nel senso che un po' come siamo noi, un po' qua, un po' là, un po' inconsci, un po' fluttuanti come l'ultimo disco, anche un po' il nostro nome. Non significa nulla in realtà. Suona bene, cioè letteralmente l'abbiamo scelto, cioè io mi ricordo ancora, ero a letto con una lista di nomi cercando di scervellarmi, perché poi io non so neanche se sono particolarmente bravo, ma sicuramente a me non piace dare i nomi alle cose, è sempre difficile, quindi ero lì a trovare dei suoni che mi piacessero e poi è uscito Vanarin e gli ho detto se ci chiamassimo così e tutti, ma sì dai, cioè, molto casual, abbiamo preso la scelta del nome con cui ci saremmo identificati per sempre con molta tranquillità, molto casual, diciamo, però so che è un cognome in Asia, non so dirti esattamente dove in Asia, forse in Thailandia, ma non sono sicuro. Però so che esiste come parola. Okay. Avevo guardato su un dizionario urbano anni e anni fa e mi dava dei significati contrastanti, tipo tanta felicità, tanta depressione, cioè robe strane che sembrava quasi venisse usato come una sorta di intercalare per dire una serie di cose, comunque parola sostitutiva per dire una serie di cose diverse. Quindi non so cosa significa, però forse il bello sta anche in questo. E invece come vogliamo tradurre questo Easy Days? Come giorni nebulosi, giorni confusi, ecco, come possiamo rapportarci al così. Disco? Sì, giorni offuscati, giorni nebulosi, esattamente quella cosa lì, nebbia fitta nella testa, fondamentalmente. Ok, perché poi c'è un suono che ricorda un po' anche questo stato, come dici tu, un po' fluttuante, un po' sospeso, che crea una sorta anche di effetto nebula nella testa, nel cervello. Ecco, ma voi come lo intendevate questo titolo? Che cosa volevate esprimere? Esattamente questa cosa qua, nel senso che il disco nasce sia a livello di messaggio, quindi a livello del testo, che anche a livello musicale, quindi della struttura e della melodia, in modo molto, mi verrebbe da dire, inconscio, nel senso che abbiamo lasciato parlare le sensazioni del momento senza starli troppo a analizzare ciò che stavamo dicendo, ciò che stavamo scrivendo, nel senso che tante parole chiavi e cose che sono fuoriuscite anche a livello di messaggi in ogni canzone, per esempio What We Said, che è un pezzo che parla di una certa tipologia di rottura magari tra due persone in una relazione, ma andando ad evidenziare quella parte lì molto ossessiva, cioè quando durante la notte stai ancora pensando a ciò che sia stato detto e al perché, sai, quella classica sensazione che penso tanti di noi, certo, persone un po' ossessive abbiamo, abbiamo vissuto. Però è uscito in modo molto inconscio, nel senso parte da una frase che è uscita in un momento dove stavi solo cercando di capire come ti sentivi mentre buttavi giù la musica, non so se mi sto spiegando, chiaro. E questo vale per tutto il disco, cioè anche la musica. Infatti la tecnica di scrittura che abbiamo optato di utilizzare per questo disco è stato molto impulsiva, nel senso becchiamoci allo studio, che c'è lo studio io da me a Bergamo, ci becchiamo da me e abbiamo detto buttiamo giù tutto quello che in quel momento ci sentiamo, abbiamo un suono di chitarra che ci piace, buttiamolo giù senza sapere necessariamente in che direzione porterà. C'è la melodia, buttiamola giù, c'è un giro di batteria, buttiamola giù, e così facendo creiamo qualcosa. Infatti le canzoni sono tutte nate, eccetto Memories, che è l'unico pezzo che ho proprio scritto in modo più classico, dove ho proprio scritto la canzone e poi l'abbiamo arrangiata insieme, però tutte le altre sono nate così, da un giro di riff, da un suono di chitarra, da una pecora che fa un verso, cioè nascono tutte da queste cose, e poi ogni pezzo ha avuto la sua identità, è nata la sua identità, diciamo, okay, ad ogni brano poi col passare del tempo. Allora, domani siete al Caracol di Vicenza, confermi? Confermo. Sì, al Caracol. Esatto, perché state girando, insomma, avete già tenuto varie date, diciamo quelle partite dopo la pubblicazione del disco, c'è stata la data di Viareggio al Gob, poi siete stati a Firenze, a Milano all'Arcibellezza, domani appunto sarete a Vicenza al Caracol, poi il 15 di marzo a Genova ai Giardini Luzzati, poi il 21 a Varese al Tumiturbi, e poi immagino staranno uscendo tante altre date per presentare questo disco. Sì, infatti, esatto. Voi siete in quattro, ricordo anche gli altri: Marco Sciacqua, backing vocals e chitarra, Massimo Mantovani al basso, anche lui backing vocals, e Marco Brena, batteria e percussioni. Quindi sarete, ripeto, live con questo spettacolo per presentare un disco che, diciamo, in che formati viene pubblicato? Allora, attualmente è solo fuori digitale, uh-huh, nel senso c'è sul streaming, lo trovate ovunque, quindi YouTube, Spotify, tutti i posti di streaming che potete trovare c'è. Prossimamente probabilmente uscirà anche un formato vinile, uh-huh, che sarebbe molto bello, certo, è ancora, diciamo, anche questo in cantiere, ci stiamo lavorando, ma al 95% prossimamente ci saranno pure dei vinili che avremo del disco. Abbiamo però fatto intanto delle magliette, avevamo fatto delle magliette e delle tazze per diciamo per un po' dare qualcosa di nuovo, di un po' particolare, che facesse parte un po' dell'atmosfera del disco. Abbiamo fatto queste magliette nere e beige con la capra sopra, eccetera, eccetera, che sono uscite molto bene. Poi avevamo fatto delle tazze. Le tazze le abbiamo finite tutte, ma abbiamo adesso tutte queste magliette del nuovo tour, quindi per chi verrà a sentirci sarà per me un piacere parlarvi, per chi viene, e se volete vedere anche le magliette ve le farò vedere e li indosseremo insieme e commenteremo. No, però allora mi nasce una domanda così che non c'entra nulla, hai citato già un paio di volte le capre, c'è una band di Bergamo che sono le Capre a Sonagli, ma siete in contatto con loro? Sì, li conosciamo molto bene. Okay. Allora, il collegamento è, com'è che si dice, non è stato calcolato, diciamo, però sì, li conosciamo stra bene. Ok. Sì, dei sì. Grandissimi assolutamente, capo. Piacciono molto anche loro, infatti, che stanno pubblicando dei singoli, ottenendo poi il nuovo album che non so se uscirà in questo 2025. Sicuramente è uscito il vostro lavoro che state portando in giro, e di quale brano pensate eventualmente di fare il videoclip? Questa è una bella domanda. Potrebbe, allora ti dirò, secondo me i pezzi candidati al videoclip sono o My Circle, uh-huh, o Memories, o possibilmente anche Falling Under, e ce n'è ancora una, è Hey Listen, che è il primo, secondo me sono i candidati possibili per la videoclip. Faremo qualcosa, cioè stiamo già muovendo le pedine, quindi sicuramente spero il più prima prima che tardi, insomma, prima che dopo, però certo. Avremo sicuramente uscirà un videoclip, quindi quello poco ma sicuro. Magari anche dei videoclip, speriamo, teniamo le dita incrociate. E a proposito, visto che hai citato tanti titoli, lascio scegliere a te un'ultima canzone da ascoltare dall'album, qualcosa che vuoi far conoscere. Allora io direi concludiamo con My Circle, okay. Visto che abbiamo parlato di pecore e di capre, perché proprio in quel pezzo lì abbiamo inserito il verso della capra. Perfetto. Per chi ha ascoltato può star lì a vedere se riesce a beccare dove è stata inserita. Allora io, ecco, ti ringrazio per essere stato con noi. Se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, a te i microfoni. Guarda, l'unica cosa che mi sento di dire è innanzitutto grazie a te, è stato un piacere parlare, lo è sempre. Grazie. E quello che dico a tutti che stanno ascoltando è venite a sentirci se potete, perché live è tutta un'altra cosa rispetto al disco, è proprio un'altra esperienza, ci teniamo tanto a regalare proprio un'altra tipologia di esperienza, quindi non voglio rovinare il troppo, ma comunque se il disco è in un modo, ovviamente è fatto molto verosimile a livello di sonorità, perché quello è il messaggio, certo. Però live c'è tutta un'energia diversa, più esplosiva, cioè un po' balliamo, suoniamo, abbiamo anche riarrangiato alcune cose, secondo me è proprio un bello spettacolo e ci si diverte tantissimo, quindi per chi vuole venire a sentirci in tutte le date che abbiamo detto, o chi vuole seguirci su Instagram per future date, venite a sentirci, siete tutti invitati e ci divertiremo un sacco, e ve lo posso assicurare. Beh, hai dato veramente un messaggio convincente. Allora ricordo, domani a Vicenza al Caracol, 22 di febbraio, il 15 marzo a Genova ai Giardini Luzzati e il 21 marzo a Varese al Tumi Turbi, e poi sicuramente si aggiungeranno altri appuntamenti, poi non so se ne sono aggiunti altri veramente o no, nel senso io ho a disposizione queste date qua, poi non so. Beh, se ne conosci altre. Per chi è interessato ed è vicino a Bergamo, ne faremo una proprio qua in casa a Bergamo il 28 marzo al Daste. Ok. A proposito, siete di Bergamo Alto o Basta? Basta. Ci sono più soldi per stare in Bergamo Alto. D'altro, beh, capisco, sì. Bergamo Alto ci sta il presidente dell'universo, no? Immagino, sì, beh, lì ormai è molto più turistico quasi, insomma. Esatto, sì. Esattamente. Benissimo, allora eccola qua, My Circle per i Vanarin. E allora io ringrazio David Paisden per essere stato con noi, e poi speriamo di vedervi dal vivo, personalmente anche dalle mie latitudini, quanto prima, insomma. Volentieri, spero. Ciao. Anch'io. Grazie mille. Ciao. Io le ho sentite le capre all'interno del brano dei Vanarin, My Circle. Vanarin ospiti oggi qui a Radio Città Aperta. Poi tra poco, fra un 20 minuti o giù di lì, avremo ospite invece la regista Lisa Bosi per parlare del docufilm dedicato ai Gas Nevada intitolato Going Underground. E quindi abbiamo ascoltato nel brano le capre, abbiamo citato le capre, abbiamo citato le capre a sonagli che vengono dalla stessa città dei Vanarin, ossia Bergamo, e allora ascoltiamo le capre a sonagli con la canzone Capra Pelada. Ma non voglio dare della capra a nessuno, anzi, le capre sono molto carine e simpatiche, e anche le capre a sonagli sono molto bravi e simpatici, quindi ci gustiamo insieme questa loro canzone. A voi, miei signori, io voglio narrare la storia che tanto mi fa disperare. Sono già 7 mesi che vedo cadere dal capo i capelli pian pian. Ormai son pelato, deluso, finito, non so quali cure adottar. Ma senti cosa dice quel povero infelice. Non ti lamentar, ma prova a cantar con noi questa canzone. Crepa pelada, la peito te, gelada, minga, sofre te, sofre te, falla, fritada, gelada, minga, dedicato a tutte le cape pelate. Capra pelata è il titolo, ma in realtà è un qualcosa per chi si ritrova la capa che perde sempre più capelli e un po' chi scoccia, ne so qualcosa. Le capre a sonagli, Capra pelata, da Bergamo, uno dei loro più recenti singoli. Attendo con curiosità il loro nuovo lavoro. Loro si chiamano Lebenswelt, dall'album Unspoken Words, questa è Gone. House. so empty now. Rooms full of books, scattered on the floor. So dreary now. You're gone. Napoli, Lebensvelt, formazione di matrice più slowcore e melanconica. Questo brano si chiamava Gone, un brano che appunto si sta andando a concludere, un sicuramente sound melanconico che va così a contrasto con quello che abbiamo ascoltato in precedenza, più pimpante e scherzoso, e sicuramente atmosfere molto intense per l'Ebensfeld, ripeto, da Napoli, questo disco che quindi abbiamo ascoltato insieme e che anche presentammo con il gruppo stesso nel 2022, quando fu pubblicato questo bel titolo. Allora, vi annuncio un altro appuntamento live che andrà in scena domani a Roma, al Cantiere, qui a Trastevere, a via Gustavo Modena 92. Di scena Kevin Butler insieme a Dave Moorcroft Band. Beh, un progetto che è sicuramente anche con elementi stranieri, ma ci sono anche musicisti italiani quali Gianluca Bonetti e Diego Carruba, forte all'interno della band di Dave Moorcroft, artista inglese ma che vive ormai da tempo in Italia, anzi è stato anche uno speaker di Radio Città Aperta per un breve periodo. E quindi rinnovo la data di Kevin Butler e Dave Moorcroft Band. Ci ascoltiamo un estratto di un loro live che è avvenuto a settembre 2024. Ora ripropongono il loro concerto in quel del Cantiere in via Gustavo Modena a Trastevere. Ripeto, Kevin Butler e Dave Moorcroft Band. Buon ascolto. Arriva, eh? Vediamo, ci vuole un pochino. Una traccia che prende così a supporto anche il mio cognome, ossia Dust. Io sono Polverari, quindi tradotto Dusters, invece questo è Polvere Dust. Va bene, ho riempito lo spazio di buco con questa stupidaggine. Oh, E questa è la musica di Kevin Butler insieme a Dave Moorcroft Band, quindi progetto italo-inglese che vede coinvolti ovviamente musicisti anche italiani, data che appunto andrà in scena domani al Cantiere in via Gustavo Modena a Trastevere, quindi segnalato anche questo appuntamento. Siamo pronti per realizzare l'intervista con la regista del film dedicato ai Gas Nevada intitolato Going Underground, una celebre tra l'altro canzone dei Gas Nevada, formazione di Bologna che ha attraversato il punk, il post-punk, poi quella via di mezzo tra post-punk e funk e poi l'italo disco, formazione veramente importante, e giustamente arriva questo film documentario su di loro che sono molto curioso di vedere. Intanto ci ascoltiamo una splendida Icy Love Affair dal periodo che è a cavallo un po' tra il punk funk e l'italo disco. L'album era Psicopatico Party, che aveva appunto questi elementi al suo interno. Brano Icy Love Affair che uscì anche come singolo di successo, lo presentarono anche al Festival Bar e trasmissioni musicali dell'epoca. Tra poco Lisa Bosi con noi al telefono. I See Love Affair. Questa è una delle tracce probabilmente più famose dei Gas Nevada, in quel periodo di passaggio dal sound di Six Soundtrack e anche dell'EP successivo, che avevano delle atmosfere un pochino più post-punk, dei passaggi un po' tra l'italo disco da una parte, elementi un po' post-punk funk, intendo sulla scia di A Certain Ratio, sulla scia dei Conk, sulla scia di certi Pigbag e via dicendo, quindi, e poi si arrivò a sonorità più elettroniche. Comunque, grandi Gas Nevada, e con molto piacere quindi vado a introdurre la regista di questo film documentario, che si chiama Lisa Bosi, che abbiamo con noi al telefono. Ciao Lisa, ben trovata. Ciao, grazie mille dell'invito, ciao a tutti. No, beh, grazie a te che hai avuto l'idea di realizzare questo documentario su una grande band che sicuramente ha avuto un momento in cui è un po' sparita dall'immaginario negli anni 90, poi è riapparsa piano piano anche grazie al film su di Paz, dove apparivano con un Japanese Girl nella colonna sonora, e poi piano piano il culto sui Gas Nevada si è riavvivato con anche le ristampe dei dischi, e quindi la riscoperta proprio della loro proposta, che è stata sicuramente importante per chi l'ha vista all'epoca tra la fine 70 e la metà degli anni 80, perché loro è stato un percorso che partiva dal punk e è arrivato poi, attraverso cambi di stili così, anche sui palchi di, dicevamo prima, del Festival Bar e di cose simili. Allora, raccontaci un po' dell'idea, come è nata e come è stato sviluppato. Il film si chiama Going Underground, in anteprima domenica See You Sound a Torino nella rassegna cinematografica che abbiamo presentato, e poi andrà nelle sale da lunedì. Esatto, sì. Allora, innanzitutto sì, See You Sound, io sarò lì ospite domenica il 23, ma poi ci sarà anche una seconda proiezione il 27, con dopo un after show dei Gas Nevada, quindi ve lo dico per gli appassionati perché loro, ovviamente, il loro album più famoso, Six Soundtrack, hanno fatto una versione sintetica, sì. Appunto sempre per passare tra un genere e l'altro, come fanno loro, e quindi adesso c'è questa performance, diciamo, di DJ set che loro hanno portato in giro. Sono arrivati anche al famoso Berghain di Berlino con quella performance, che io ho visto in una serata al Dams di Bologna, ed è lì che è nata l'idea di fare un documentario su di loro. Dopo sono da una cena, li ho sentiti parlare proprio quella serata lì, e ho pensato che, in effetti, come tu giustamente dicevi prima, nessun gruppo, secondo me, come loro sono riusciti a passare dal post-punk alla proto-house, perché in realtà I See Love Affair, che era il loro brano che io avevo più in mente venendo dall'ambiente house e techno, è suonato ancora oggi in tutte le discoteche ed ha già una cassa in quattro da musica house, insomma, veramente sono stati dei precursori sempre. Anche se poi questo brano era all'interno, scusa ti interrompo, all'interno dell'album Psicopatico Party, che era, diciamo, il loro secondo, che comunque aveva anche delle sonorità che non erano proprio simili, cioè proprio uguali a queste, avevano anche dei richiami al loro passato, era un disco di passaggio questo qua. Esatto, erano un po' a metà, come dice Ciro, ad un certo punto gli hanno tolto tutte le chitarre, le sonorità stavano cambiando, la produzione cambiava, quindi attraverso la loro storia riuscivo a raccontare una fascia abbastanza grande di musica e di società italiana, perché cambia la società, cambia anche la musica, cambia il loro modo di pensare, alcuni riescono a trasformarsi, altri di loro non ce la fanno e abbandonano, perché ovviamente passare dalla scena punk italiana al glamour dell'edonismo anni 80 non è facile. No, tra l'altro, appunto, perché la musica dei Gas Nevada perché è importante? Perché rappresenta anche la storia d'Italia per certi versi, da un periodo caldo come quello di fine anni 70, dove Bologna era anche un epicentro importante, perché sì che c'erano le grandi tensioni, i grandi scontri con la polizia, ma Bologna era anche un circuito artistico veramente di livello, non solo in ambito musicale ma anche a livello, appunto, di varie altre arti, pensiamo al teatro di strada, pensiamo al fumetto di Pazienza e tutti gli altri che erano collegati al Traumfabrik. Poi appunto si passa, anche l'Italia cambia, diventa l'Italia un pochino con meno tensioni, e anche il suono della band cambia in quella direzione. Guarda, tu prima citavi Paz, il film di Renato De Maria, che era lì con loro in quegli anni, sia Renato De Maria, che è diventato un famosissimo regista, che Andrea Pazienza, che disegnava lì con loro nella Traumfabrik, nella loro fabbrica dei sogni, e c'è ovviamente nel film un passaggio di Andrea Pazienza in cui si vede che l'idea del suo Zanardi, del suo eroe più cattivo, viene proprio mentre disegna un giorno lì con loro nella cucina della Traumfabrik. È stato un momento molto particolare in cui, chiusi in questa fabbrica di sogni, loro sono riusciti a creare, a disegnare, fare fumetti. C'era anche Filippo Scozza, era un altro famosissimo fumettista lì con loro. Ecco, nel film ho provato a mettere un po' tutti gli ingredienti che hanno reso questo periodo magico per Bologna, ma per l'Italia in generale. Tra l'altro, una volta intervistando Ciro Pagano, rivelò come poi Zanardi è ispirato al suo profilo. Esatto, sì, nel documentario c'è, tra l'altro loro litigarono molto per questa cosa, perché ovviamente Zanardi, per chi ha letto Pazienza, è cattivissimo, di una cattiveria, però diciamo che Pazienza in realtà riusciva veramente a leggere molto bene la generazione di quell'epoca e la società, cosa stava succedendo nel bene e nel male. Ed è un po' questo anche che mi piaceva dei Gas Nevada. Dicevo nella presentazione all'anteprima che abbiamo fatto al Festival dei Popoli, un festival nel mondo del documentario molto importante a Firenze, che io di formazione sono un architetto e sono abituata a vedere il mondo per luci e ombre, che sono quelle che danno la nostra tridimensionalità, no? Ecco, io quando vedo delle vite fatte di luce abbagliante come la loro, come dicevi tu prima, sono arrivati al Festival Bar, a Pippo Baud, quindi è un successo, l'hanno raggiunto, no? Ad un certo punto il successo, dietro quelle luci abbaglianti c'è un'ombra nerissima, quindi c'è anche purtroppo in quegli anni tanta eroina, arriva questa droga nelle piazze, non si trova altro ad un certo punto. Quindi con loro sono stata molto chiara fin dall'inizio che questo doveva essere un racconto sincero, sia della parte di luce sia della parte di ombra, e loro sono stati veramente bravissimi anche messi in scena. Adesso il documentario è formato da una serie di voice over loro registrati, nati da lunghe interviste, un anno di interviste con loro, con cui mi sono anche guadagnata la loro fiducia, diciamo, e poi tutta una serie di scene scritte appositamente per loro, che sono una sorta di storia nella storia, quindi non è un documentario con le interviste sedute, ma è un documentario più onirico. Allora, quando uscirà il podcast di questa intervista con Lisa Bosi per Going Underground, oltre al file audio della chiacchierata, troverete anche il trailer, il video del trailer. Per ora, se sei d'accordo, ce lo ascoltiamo anche a livello radiofonico, così insomma diamo una piccola idea di quello che poi sarà il contenuto delle immagini. Grazie. Decidemmo di chiamarci Gas Nevada. Acido e cianidrico. Avevamo in mente solo la musica. È un viaggio pericoloso quello che abbiamo fatto. Voi avete mai avuto una crisi di astinenza? Eravamo in cantine trasformate in sale prove. Il sottosuolo pulsava di musica nuova. Io volevo diventare ricco e famoso con la musica. Era questo l'unico futuro possibile. Trailer che si conclude proprio con l'intro di I See a Love Affair, quindi nelle immagini scorrono anche delle siringhe, come dicevi, quindi c'è questo tratto e ci sono immagini più attuali ma anche immagini d'epoca. Ecco, che lavoro d'archivio c'è stato per raccogliere tutto questo? È stato un lungo lavoro d'archivio, ma come in ogni documentario la parte archivistica ovviamente al 50% è importantissima, e grazie ai miei produttori, in particolare a Sonne Film, sono riuscita a mettere le mani sull'archivio di Red Ronnie, che ha un archivio pazzesco di tutti i gruppi di quegli anni, e quindi alcune immagini vengono dai suoi archivi privati. Poi ci sono state delle ricerche nell'archivio enorme della Cineteca di Bologna, dove ho trovato tra l'altro un video bellissimo di un loro concerto a Roma, in un locale a Roma, ed è stato digitalizzato appositamente per questo film. Bello. E quindi c'è anche del materiale inedito, tanti archivi privati, sì, c'è tanto archivio unito appunto a queste scene in cui ci tengo a precisare che nessun Gus Nevada è stato maltrattato. Ecco, mi raccomando. Molti mi hanno detto: gli hai fatto fare delle cose pazzesche. Qui all'inizio del trailer si vede che loro sono in questa montagna lunare sdraiati per terra, ed erano veramente loro, non ho usato controfigure, e sono stati veramente bravissimi, come poi loro sono dei performer pazzeschi, quindi quando li metti in scena sono stati veramente molto bravi, anche in scena appunto abbastanza complicate anche da fare. C'è uno di loro che vive ormai all'estero da tanti anni, se non sbaglio, almeno che non è tornato. E allora sì, Marco Bongiovanni ha fatto per tanti anni la carriera di DJ, esatto, all'estero, adesso in realtà è rientrato, anche okay, perché appunto abbiamo fatto tutte le riprese, adesso ci saranno le presentazioni, però sì, lui è diventato un DJ famoso all'estero, per esempio, anche lui si è spostato, Ciro è diventato Datura poi. Certo, quando, grande successo. Esatto, lui ha avuto successo poi nel mondo della dance, quando prima dicevi negli anni 90 magari non se ne sentiva più parlare, perché è un momento poi in cui appunto per esempio Ciro è stato catturato dalla dance e ha fatto successo in quell'ambito. Tra l'altro ti dico questo, se posso dirtelo, uscirà anche la colonna sonora del film, dove ci sono tre brani inediti dei Gus Nevada, e uscirà anche quella lunedì insieme al film. Ma tre brani inediti creati adesso o roba del passato? Sì, sì, che hanno creato appositamente per mettere il film, e i tre brani usciranno con la Warner, e però saranno anche all'interno della colonna sonora del film, che invece è in uscita con l'Expanded Music. Ma quindi che faranno? Come i CCCP si riuniranno tutti e cinque e torneranno dal vivo proprio a parte, allora, la parte synth, proprio quella suonata, oppure no? No, diciamo che al momento i Gus Nevada sono in due, sono Ciro Pagano e Marco Bongiovanni, e continueranno loro a portare avanti il nome dei Gus Nevada. Come dice Ciro, partono in sette e arrivano in due. Ah, ok. Sì, perché insomma sono molto curioso di vederlo questo film. Parlando di Roma, ci sarà la presentazione mercoledì alla Sala Troisi, dove ci sarà alle 21:30, dove ci sarà anche come relatore il giornalista Federico Guglielmi, nostro amico, insomma. Esatto. Che sarà lì con te. Sì, faremo una presentazione prima del film. E sì, ci sarà lui, e quindi niente, il 26 alle 21:30 vi aspettiamo numerosi al Troisi. Assolutamente, non mancherò, sono molto curioso di vedere questo film, che tra l'altro è stato presentato anche a Bologna. Io lo avevo annunciato qui in radio un paio di settimane fa. Come è andata? A Bologna giocavamo un po' in casa, quindi è andata molto bene, e abbiamo fatto sold out al Cinema Modernissimo di Bologna, che è quello centrale, che ha riaperto da poco, da un paio d'anni. È stata una serata decisamente molto bella, e speriamo di replicare nelle altre città lo stesso successo. Lì è veramente stato molto bello, e il film per ora sta andando bene. Com'è? Dunque, il Gus Nevada sono solo per chi è un po' più grande d'età, o hai notato che c'è anche qualche partecipazione più giovane? Cioè, adesso ancora poche proiezioni, però che ne so, a Bologna hai notato anche un qualcosa che riguardava? Guarda, secondo me c'è molto interesse in generale verso anche i momenti post-punk. Adesso mi sembra di ricordare che te sei un fan del post-punk polacco. Sì, confermo. Confermi. C'è un po' una riscoperta, secondo me, di certe un certo tipo di musica. Sì. Nel film, per esempio, ho vestito i Gas Nevada con delle fantastiche tuchine argento che mi ha dato Slam Jam, che è un marchio molto giovane di streetwear. Quindi nella presentazione a Milano che abbiamo fatto nel loro spazio, lo spazio Maiocchi, c'erano moltissimi giovani, bene, oltre ai giornalisti. Bene. Quindi secondo me c'è un po' una riscoperta di quei periodi, perché sono stati veramente decisamente interessanti. Assolutamente, pensando poi alla nostra contemporaneità, c'era veramente un fermento culturale e artistico che coinvolgeva tanti giovani sotto forme diverse. Poi certo, l'avvento dell'eroina ha fatto un po' tabula rasa di tante situazioni o persone, però sicuramente il fermento che c'era artistico, partendo proprio da Bologna, è stato fondamentale. Fondamentali anche le figure, ecco, l'hai citato prima, di Red Ronnie, che all'epoca insomma sicuramente supportava queste realtà, o Oderzo Rubini con la sua Italian Records, e tanti altri personaggi che da Bologna insomma portarono poi in generale tanti artisti anche dall'estero, perché poi vennero, Bologna divenne famosa all'epoca anche all'estero, e tanti artisti inglesi o statunitensi vennero a suonare a Bologna, che la si considerava proprio alla pari di una città come Londra o New York a livello artistico. Sì, pensiamo che in quegli anni è nata a Bologna anche il dance, disciplina di arte, musica e spettacolo, quindi giravano in città personaggi come Umberto Eco, come Gianni Celati, la già citata da te Italian Records. Era un momento di fermento, probabilmente per chi, per ragazzi giovani che si trovavano in quel momento in quella città, era anche naturale mettersi alla prova artisticamente. Era la Bologna anche della Linovi, quindi tanti, certo, artisti newyorkesi, certo, arrivavano a Bologna. La Linovi era la, possiamo dire, la direttrice della Galleria d'Arte Contemporanea. Sì, era una curatrice che alla famosissima Galleria Neon portava l'arte più all'avanguardia, che c'era, sì, l'arte della strada newyorkese sostanzialmente, quindi andava là, prendeva gli artisti e li portava a Bologna. Come dici tu, Bologna in quel momento era, pullulava di arte, di musica. Però devo dire che anche adesso Bologna sta da qualche anno a questa parte rinascendo in maniera importante, che tanti artisti si trasferiscono, io vedo anche a livello musicale, a vivere a Bologna. Ci sono tanti cinema d'essai, c'è teatro, ci sono varie location dove si suonano, tante realtà passano per Bologna, insomma mi sembra nel grigiore generale insomma Bologna ancora in qualche modo dà qualche scintilla. Sì, me lo chiedeva l'altro giorno, guarda, un giornalista, perché Bologna, secondo me, non a caso è diventata la città della musica UNESCO. Pensiamo anche alle poste, no? Sì, a tanti altri, vabbè, periodi, certo, importanti. Secondo me è una città che ancora oggi riesce a stimolare la creatività degli altri, di chi ci vive, lascia la mente probabilmente un po' più libera per qualcosa di creativo. Ed è rimasta nel suo DNA questo, probabilmente è per quello che, al di là del cantautorato importantissimo che c'è stato, come Dalla, Carboni eccetera, nascono anche cose nuove. Assolutamente. Invece tu mi dicevi come hai conosciuto i Gas Nevada? I Gas Nevada tramite amici del mondo della notte, perché il mio primo documentario si intitola Disco Ruin, che è uscito alla Festa del Cinema di Roma 4 anni fa, e parlava della storia della discoteca italiana dagli anni 60 fino a fine anni 90. E lì si parlava di tanti locali, quindi tra cui anche del famoso Kinky di Bologna, il Kinky Club, e tramite la storica proprietaria del Kinky ho conosciuto i Gas Nevada in questa cena. E quindi è nato tutto così, casualmente. Però quando incontro 5 persone come loro, da documentarista non puoi fare altro che volerli raccontare, perché sono ancora oggi assolutamente non convenzionali, ed è per questo che sapevo subito di non fare interviste, certo, sedute, per quello c'è stato un lungo lavoro prima di stesura di una sceneggiatura vera e propria, è costruito come se fosse un film più che un documentario. Oh, quindi Sonny Film e Wanted Cinema per Going Underground, Lisa Bosi, ecco, quindi hai citato Disco Ruin, il tuo ultimo lavoro è Going Underground, hai realizzato anche altro? No, sto scrivendo altri due progetti, incrocio le dita perché sono all'inizio della scrittura, però questo è il mio secondo, Going Underground, è il secondo lavoro che faccio. Quindi ti alterni tra la cinematografia e l'architettura in questo senso, c'è qualche influenza architettonica nella tua musica, nelle tue inquadrature? Assolutamente sì, sì, sì, è l'estetica è quella che... potrete vedere nel film, sono colori molto acidi, una fotografia estremamente naturale, e anche le inquadrature mi vengono tutte dal mio essere architetto, quello sicuramente. Ottimo. Sì, sì. Senti, allora abbiamo citato la data di Torino e quella di Roma, quindi Torino domenica See You Sound, Roma 26 febbraio mercoledì al Cinema Troisi ore 21:30, ma in realtà il film esce da lunedì a mercoledì quantomeno con varie città, non so se ne vuoi citare qualcuna. Guarda, oppure ti aggiungo giusto un paio di città se posso. Certo. Bologna al Cinema Galliera il 24, 25 e 26, e il 24 sarò lì io con anche Gas Nevada, e ti aggiungerei anche Milano al Cinema Beltrade il 25 sera, sarò lì io con Emanuele Sacchi, che è un altro giornalista e selezionatore del Festival dei Popoli, quindi insomma vi aspettiamo al cinema. C'hai idea di portarlo anche nel sud Italia? Sì, guarda, ci sta lavorando il distributore, per quello sarà un'uscita lunga, nel senso che poi ci saranno altre date anche a marzo, ad aprile, vi chiederei di guardare il sito di Wanted Cinema dove ci sono sempre tutte le date e le sale aggiornate. Senti, per Roma è solo il 26 quindi? Per ora sì, è un'uscita evento al Troisi e poi vediamo cosa succederà. Benissimo. Senti, allora lascio scegliere a te un brano di Gas Nevada che ami o che hai voglia di far ascoltare ora. Beh, io direi a questo punto allora di mettere proprio Going Underground, che dà il titolo al film. Assolutamente. Allora, Lisa, noi ci vediamo sicuramente mercoledì alle 21:30, presentazione dapprima insieme a Federico Guglielmi e te, e poi proiezione quindi dalle 21:30 al Sala Troisi, non mancate perché merita assolutamente la visione. E anche per chi magari non conosce Gas Nevada può essere un modo per approfondire non solo la conoscenza di una band ma anche di un periodo storico, di un quadro dell'Italia degli ultimi 40 anni, possiamo dire, assolutamente. Sì, esattamente, ti ringrazio tantissimo. Figurati, è stato un piacere, sono veramente molto curioso di gustarmi Going Underground e da arriva adesso anche la canzone. Ciao Lisa! Grazie, ciao, a mercoledì, ciao. Ciao. Going Underground, quindi per Gas Nevada, per quel che riguarda poi questo film documentario Going Underground, curato, realizzato dalla regista Lisa Bosi, che è stata nostra ospite. Altern Italia ancora con voi per una decina di minuti qui su Radio Città Aperta, con voi Gianluca Polverari, e quindi continuiamo per questi ultimi minuti con altra musica. Ebbene, continuiamo con gli S Forte, questa formazione che viene dalle Marche, da Iesi. Abbiamo presentato qualche settimana fa Crepa nel buco, il loro lavoro, e allora ci gustiamo la traccia che conclude l'intero lavoro, ossia Solitude, per S Forte. Sadica modificando la realtà, ostaggio prescelto, la differenza è sottile, guarire per poi seppellire, nascere come morire, l'ultimo respiro uguale al primo, solo parto e solo arrivo. insieme brandelli, pezzi. Se mi guardi fallisco, pazzesco, impazzisco. Il mio spazio di rischio, ora non ti mischio con i miei problemi. Ti prego, vola via, lasciami da solo, lasciami sentire solo. In ogni sbaglio, in ogni torto, in ogni abbaglio, sei il mio porto senza faro. Mi metto in gioco ma baro, non sono pronto, sparo. Conclusioni facili con ossa gracili, pensieri acidi, non è finita. Devo allenarmi, sentire il corpo, svegliarmi. Con note corte, passioni storte, visioni. Prendono vita illusioni, canzoni scartate, riprese cantate, serate con foto staccate da mani curate a ferite mai chiuse. Non servono scuse, non servono scuse, non servono scuse, non servono scuse, non servono scuse, non servono scuse. Grandissimi, S Forte, un brano veramente ottimo. Solitude conclude il loro disco Crepa nel buco da Iesi, questo progetto che coinvolge musicisti in passato attivi con formazioni di svariato stile musicale, dal post-punk a un certo hip hop più scuro e deviato a elettronica, quindi i vari Butcherman Collapse, i TDJ, i Le Boschi e via dicendo. Quindi S Forte, Crepa nel buco, l'ultima uscita di questa formazione. Siamo giunti al termine di Alternitalia, con voi Gianluca Polverari in questa trasmissione. Oggi non ci sarà Talking Loud e quindi un paio d'ore di novità discografiche, e poi dalle 20 ci sarà Dario Pizzetti, Night Toys. Per quel che mi riguarda, Alternitalia tornerà ovviamente venerdì prossimo dalle ore 16. Per altri miei appuntamenti vi ricordo lunedì dalle ore 16 Puzzle, come già detto in precedenza avrò ospite Laura Agnus Day, altra artista che viene a Bologna molto presente nei miei spazi. Puzzle è una trasmissione di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e molto altro ancora. E poi mercoledì mattina ci ritroveremo con Mercoledì Morning. Vi lascio con le Lilies on Mars, che insieme a Stefano Guzzetti hanno realizzato questo ottimo ritorno discografico, che è di area dream pop e shoegaze, e avremo ben presto anche le Lilies on Mars con noi qui a RCA. Intanto ci gustiamo Phoenix. Ciao ciao da Gianluca Polverari, buon weekend, sempre in compagnia di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.